cerca di un colpevole. Quest'anno hanno deciso che toccava a me andarmene ad Hammamet. E passo i pomeriggi così così, tu sfili sulla spiaggia come Gigi Hadid. Vuoi vincere, stravincere. Se penso al mio futuro vado in panico, l'ansia fa su e giù tipo yo-yo. Come tutti gli italiani all'estero, l'anno prossimo non voterò. Alza il finestrino che stoniamo Battisti, mi ritorni in mente. Mai dai, faccio la pole dance e dopo Notello Oktoberfest con il degrado come special guest. All'entrata non ci sono guardie, puoi entrare pure senza scarpe. In privato come un volo charter, in ciabatte fai sto red carpet. Se penso al mio futuro vado in panico, l'ansia fa su e giù tipo yo-yo. Come tutti gli italiani all'estero, l'anno prossimo non voterò. Alza il finestrino che sogniamo Battisti, mi ritorni in mente. Quattro bypass. Qui trovi solo il mio gelato. Corsia suona e fan. Non ho cultura, la mia gente non sa che Neruda ha, però sapore di sale. Le telefonate, ore ad aspettare. Poi mi ne ho occupato perché chiami anche tu. Bolle di sapone sotto il tuo balcone. E mi piace tanto tanto quando mi annoio e tu mi fai.